Capitolo 3 sul sapere all'ilm. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la abbia in gloria, disse: l'acquisto del sapere è un dovere che il musulmano e la musulmana sono tenuti ad adempiere dalla culla alla bara, au kama qala alayhi salatu wassalam, cioè o come disse, che Allah lo benedica e la abbia in gloria. In un altro hadith disse: ricercate il sapere dalla culla alla bara. Disse, che Allah lo benedica e la abbia in gloria: Allah conduce sulla via del paradiso colui che si è messo alla ricerca del sapere. In verità, la superiorità dell'uomo che sa rispetto a quello che non sa è quella dello splendore della luna rispetto allo splendore delle stelle. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: acquistate il sapere, il suo possesso mette in grado di distinguere il bene dal male e illumina la via del paradiso a chi la possiede. Esso è il nostro amico nel deserto, il nostro compagno nella solitudine, il nostro sostegno quando non abbiamo amici. Esso ci guida alla felicità, ci aiuta nella povertà, è un ornamento quando siamo in mezzo ad amici e una corazza quando siamo in mezzo a nemici. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: chi sono coloro che sanno? Coloro che sanno sono quelli che mettono in pratica il loro sapere. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: l'inchiostro del dotto è più santo del sangue del martire. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: chi esce di casa alla ricerca del sapere è sulla via di Allah finché ritorna. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: ricercate il sapere anche se in Cina. Disse ancora: il sapere è un castello colmo di tesori e le chiavi del castello sono le domande. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: ascoltare le parole di un dotto e inculcar negli altri le lezioni del sapere è meglio di far preghiere supererogatorie. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: nel resistere alle aggressioni di Satana, un uomo dotto è più forte di 100 ignoranti. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: se vuoi sapere chi sei, devi studiare. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: chi conosce se stesso conosce Allah. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: la ricerca del sapere è un dovere religioso per ogni musulmano, e voler insegnare il sapere a chi non ne vuol sapere è come metter perle, gioielli e oro al collo di porci. Disse, che Allah lo benedica e la ben gloria: chi onora colui che sa, onora me.